America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Siamo sulla Croisette, dove normalmente i nostri ascoltatori sono più abituati ad ascoltare reportage sul Festival del Cinema, dal Palazzo del Cinema, ma oggi qui a Cannes ci sono i ministri finanziari, ci sono soprattutto i capi di Stato e di Governo delle 20 economie più importanti del mondo. Ho usato il plurale, ho detto siamo a Cannes, alla Croisette, perché mi trovo con due amici e colleghi, Massimo Gaggi del Corriere della Sera, Maurizio Molinari della Stampa. Beh, vi ho riproposto questo spaccato in diretta che feci nel 2011, novembre 2011, da Cannes, dove si teneva, dove stava per finire il G20, un G20 che oggi in Italia è nell'occhio del ciclone, perché abbiamo avuto nuove rivelazioni nelle memorie dell'ex segretario al tesoro Tim Geithner, che era presente a quell'incontro. In queste rivelazioni Geithner dice che alcuni colleghi europei, non dice chi sono, ma dobbiamo sospettare che fossero la Merkel e Sarkozy, chiesero all'America di creare difficoltà, di creare una specie di complotto per creare difficoltà all'Italia e a Berlusconi, con l'obiettivo di costringerlo a dimettersi. Come? Attraverso un rallentamento di possibili finanziamenti da parte dell'FMI, del Fondo Monetario Internazionale. Ricordiamo il contesto di allora: la crisi economica ormai divampava in Europa, il Fondo Monetario aveva messo a disposizione delle risorse per la Grecia, ma anche, se lo volevano, per l'Italia, per la Spagna, e l'ipotesi che l'Italia andasse allo sportello del fondo era, come dire, senza precedenti. Questo il contesto d'insieme. In realtà lì si parlava di questa crisi. E ho con me ai microfoni America 24 Massimo Gaggi, che era con me proprio così a raccontarvi questa storia del G20 di Nizza. Buongiorno Massimo. Buongiorno a te Mario. Eccoci Massimo. Beh, ricorderai Massimo l'atmosfera tempestosa di questo vertice del G20, perché pioveva di rotto, no? Io non ricordo che abbiamo mai visto il sole. Sì, furono giorni drammatici anche per in Italia, furono i giorni poi del dramma dell'alluvione a Genova con molti morti e poi chilometri di distanza. E pioveva sul bagnato anche per l'Italia a Cannes, ce lo ricordiamo, erano un po' i giorni della fine del governo Berlusconi, che era indispettito dagli attacchi che subiva, ma anche consapevole dell'estrema vulnerabilità della posizione dell'Italia, e anche in pubblico, insomma, vedevamo i risolini della Merkel, di Sarkozy nelle conferenze stampa, si percepiva molto questo clima di enorme difficoltà dell'Italia e del suo leader di allora. Ecco, che era un clima che diciamo a Cannes lo si percepiva, ma si era già formato anche nelle settimane, nei mesi precedenti, perché già le riunioni del fondo di settembre in qualche modo erano emersi dei problemi per l'Italia, c'era un tentativo europeo di creare la famosa SFS che poi veniva in continuazione rimandata. Ecco, vorrei far sentire quello che tu ci hai detto allora proprio sull'SFS, cioè su uno strumento finanziario extra, diciamo così, non del fondo, che avrebbe dovuto aiutare i paesi in difficoltà a livello europeo. Sentiamo. Gli FSF, per come è concepito e per come sono fatti i trattati europei, per poter funzionare come una banca e avere accesso a questo tipo di finanziamenti, che non saranno finanziamenti governativi, cioè stati sovrani, ha bisogno di una riforma integrale, di rivedere il suo statuto, quindi ci vorranno di nuovo votazioni di decine di parlamenti. Ecco Massimo, questo era il contesto di facciata, cioè noi ci occupavamo delle questioni macroeconomiche. Ma tu hai mai avuto il sospetto che dietro le quinte potesse esserci un tentativo di complotto? Perché io francamente non ne ho avuto percezione. Ma complotto vero e proprio è una parola grossa, ed è abbastanza sorprendente che nel libro Geithner ne parli in modo così aperto, addirittura sostenendo che è stato chiesto il coinvolgimento esplicito degli Stati Uniti, e rivelando lo stesso Geithner di averne parlato addirittura con Obama, che si disse contrario, sembra di capire a un qualunque coinvolgimento americano. Beh, ha usato anche Geithner un linguaggio molto forte, melodrammatico, molto, no? Un'immagine, sporcarsi le mani di sangue, sostanzialmente dando l'idea appunto che si andava a coltellare le spalle. Un leader che sicuramente non era amato da Obama, ma col quale Obama ha avuto dei rapporti abbastanza leali. Ecco, però da qui, scusa Massimo, emerge un quadro che da noi in Italia spesso si dice che i grandi complotti partono tutti da Washington, dall'America, eccetera, eccetera. In questo caso invece quello che Geithner dice è che il tentativo di complotto, che poi comunque fallì perché l'Italia non andò mai al fondo e quindi non c'era neanche bisogno di farlo e comunque l'America non accettò, partiva dall'Europa, non partiva dall'America. Ecco, secondo te questo chiarirà un pochino le acque sul fatto che è sempre l'America dietro qualche complotto in Italia o no? Ma io credo di sì, anche se poi è sempre più facile immaginare complotti orditi dalla superpotenza globale, però insomma, proprio nella misura in cui negli ultimi mesi Obama ha l'immagine di un leader che è riluttante a usare la sua forza, l'attenzione anche in Italia si è molto spostata negli ultimi due anni sulla Germania della Merkel come elemento decisivo e a volte anche freno per certe iniziative in Europa, quindi direi di sì, insomma, che in qualche modo questa percezione in una certa misura cambia. È chiaro che poi l'impero rimane sempre l'impero, è quello americano. Ecco, secondo te si è voluto togliere Geithner qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della Germania per così per far fare non una figura bellissima alla Merkel, che ha sempre resistito a queste pressioni americane per essere più espansivi, per cercare una politica per la crescita e per rinunciare all'austerità, anche in nome, devo dire, dell'Italia e di altri paesi europei? Certamente, se torniamo ad allora, al 2011, a quel clima di enorme incertezza sull'Italia, dobbiamo ricordarci che c'era una grande preoccupazione da parte degli Stati Uniti e di Obama per il futuro dell'Europa, timore per quella che poteva essere una nuova recessione europea che avrebbe peggiorato la situazione economica americana in vista anche delle elezioni del 2012, che erano evidentemente essenziali per Obama, e quindi c'era una forte preoccupazione e anche un certo risentimento nei confronti dell'Europa, non tanto nei confronti dell'Italia, di cui si percepiva l'intrinseca debolezza, quanto nei confronti della Germania e della Merkel, che continuavano a essere eccessivamente austere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo avuto la notizia che Bob Dylan sta per uscire con un nuovo disco dove ha questa canzone che trovo molto bella, tipica da passeggiata serale alla Croisette, non quando il cielo è in tempesta ma quando c'è la luna piena, ispirata a Frank Sinatra e dunque di Bob Dylan, Full Moon and Empty Arms. But where are you? A night like this could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.